Giornate, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Pronto? Pronto? È la sala operativa di Vigile del Fuoco Napoli, buongiorno. Ciao, dimmi. Senta, ci stanno contattando Danielo Falcone, questi sono dei giardinetti pubblici. Mi ascolti? Sì. Dicono che ci sta un albero in bilico. Ci sta picando. E voi non intervenite con lei? Quello non è un giardinetto, scusami, non. Invece giardinetto, cioè, l'albero lo manteniamo noi. No, quello dice non è che sta cadendo, lo vede piegato. Vabbè, lo vedi piegato, vabbè, giardinetti di via. Una cosa è piegata e una cosa che sta cadendo. Allora, via. Via Niello Falcone, ci ha contattato il signor i giardinetti pubblici sarebbe. C'è un recapito? Sì, lui lo ha detto, lo vede piegato, non è che lo vede piegato, vabbè, ciao. Va bene, ciao. Solito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, mi piace iniziare con una frase, un audio un po' simpatico, arguto. Questa volta è invece è l'allarme ignorato del 27 maggio 2013, quindi di un anno fa quasi esattamente, relativa a via Niello Falcone a Napoli. Il titolare di un baretto praticamente avvisa la sala operativa dei Vigili del Fuoco dicendo: secondo me, a causa del maltempo, c'è un albero che si è inclinato su se stesso in questo giardino, se volete rivolgervi a me non vorrei cadesse. Nella telefonata che avete sentito sono i pompieri che hanno ricevuto da quest'uomo la telefonata, che girano la segnalazione alla Polizia Municipale di Napoli. Dopo due settimane, questo l'albero però viene ignorato, dopo due settimane, il 10 giugno, l'albero crollerà sull'auto a bordo della quale, non so se ricordate, viaggiava una donna di 44 anni, Cristina Longi, madre di due figli, uccisa sul colpo. E queste telefonate sono state ora depositate agli atti dell'inchiesta, che è stata chiusa nei giorni scorsi dal PM Giovanni Corona. Quindi un cortocircuito questo delle varie segnalazioni tra Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, sul quale probabilmente ha influito anche il carico di lavoro, di stress che grava quotidianamente sulle due centrali operative a Napoli. Di fatto però, rileva il PM Corona, non accadde nulla, l'allarme venne ignorato e così morì questa povera donna. Questo tanto per iniziare con una notizia ma adesso vi racconterò naturalmente le altre, una sintesi come sempre della giornata. Poi entrerò in alcuni argomenti particolari, ormai chi sente Effetto Notte da tempo lo sa. E ci sono sempre i due canali per la vostra partecipazione in diretta, quello per gli sms, il 349-238-6666, e poi come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Passiamo alle altre notizie adesso. Assemblea di Banca Italia, il governatore Visco lancia l'allarme sulla Tasi, c'è il rischio di un aumento del 60%, poi dice bene gli 80 euro, ma per il bonus servono 14,3 miliardi nel 2015. RAI, dipendenti in sciopero l'11 giugno, il taglio da 150 milioni, scrivono le segreterie sindacali, non riduce gli sprechi. Camorra parla a Iovine, trovati dai carabinieri 4 Kalashnikov. Grillo difende Farage, il leader dell'UKIP non è razzista né sessista, dice così al Daily Telegraph Grillo. Thailandia, il capo della giunta militare annuncia che non ci saranno elezioni per un anno. Costa Concordia, la nave sarà smantellata a Genova, a breve ci sarà la conferma ufficiale, i lavori potrebbero partire già a luglio. Studi di settore per il fisco: sarti, calzolai, estetiste e commercianti di scarpe e abbigliamento risultano guadagnare sotto i 10.000 euro l'anno. Diritto all'oblio, Google apre all'Europa. E per il Principato di Monaco, il principe Alberto e Charlene aspettano un figlio. Partiamo quindi dall'assemblea di Banca Italia e dalla relazione del governo Visco, dalla quale fra le varie cose è emerso anche un allarme. Potrebbe costare cara agli italiani l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili. I calcoli li fa la Banca d'Italia nella sua relazione annuale. Se l'aliquota Tasi scelta dai comuni per il 2014 sarà quella massima del 2,5 per mille, avverte l'Istituto di Via Nazionale, il prelievo sulle prime case salirà del 60% rispetto al 2013, tornando ai livelli dell'IMU 2012. Più in generale, avverte poi Banca Italia, il prossimo anno il governo dovrà trovare 14,3 miliardi per garantire gli obiettivi di deficit e gli 80 euro in busta paga, bonus quest'ultimo che secondo il governatore Ignazio Visco porterà benefici ai consumi, che diventeranno però traino della ripresa solo a fronte di un duraturo aumento dell'occupazione. Una vera ripresa stenta ad avviarsi. La recessione si è riflessa pesantemente sul numero degli occupati e quindi sui redditi delle famiglie. Va seguita con fermezza la strada delle riforme strutturali per agganciare la crescita, dice ancora il governatore, ma parallelamente si deve procedere al risanamento dei conti pubblici, quindi il capitolo del credito alle piccole e medie imprese. Nelle prossime settimane la Banca d'Italia varerà misure per migliorare ulteriormente la situazione di liquidità delle banche e agevolare per tale via la concessione di credito alle piccole e medie imprese. Dal buon funzionamento della pubblica amministrazione dipende l'efficacia delle riforme, dice il governatore Visco, che punta il dito contro corruzione, criminalità, evasione fiscale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed erano presenti in sala l'Assemblea di Banca Italia, imprese e sindacati che promuovono la relazione del governatore Visco. Giusto concedere credito alle piccole imprese perché sono quelle che stanno soffrendo di più. Così Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, commenta la relazione del governatore di Banca Italia, Ignazio Visco. Le imprese sono pronte a fare la loro parte, prosegue Squinzi, ma il paese ha urgente bisogno di riforme. Reazioni positive alle parole del governatore Visco anche da parte dei sindacati. Secondo Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, la ripresa può avvenire solo se si rilancia l'occupazione. L'uscita vera dalla crisi è rappresentata dall'occupazione, quindi che sottolinea molto il tema degli investimenti sia pubblici che privati come la chiave per uscire, quindi sia un contributo importante a riportare il dibattito sul tema vero di questo paese, che è quello del lavoro. Per Raffaele Bonanni, numero uno della CISL, la chiave per la ripresa è il taglio delle tasse sul lavoro. Bisogna intensificare gli investimenti fissi e soprattutto tagliare strutturalmente le tasse del lavoro ai lavoratori e alle imprese. Imprese e sindacati quindi concordano, la priorità è incrementare gli investimenti per restituire lavoro e fiducia al paese. Giuseppe Carlomagno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito dell'allarme sulla TASI, poi vedo una notizia, una dichiarazione del sottosegretario alla presidenza Delrio che dice in realtà si pagherà meno del 2012, ma poi cercheremo proprio di chiarirlo questo, il primo tema che tratterò poi dopo il riassunto delle notizie. Parliamo del prodotto interno lordo, dopo la flessione del primo trimestre il prodotto è atteso in recupero nel secondo trimestre con una crescita congiunturale stimata in un intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,4%, questo lo si legge in una nota dell'Istat dedicata agli analisti. E in serata il Ministero delle Finanze ha diffuso le statistiche sulle dichiarazioni IRPEF 2012 di partite IVA e dati sulle dichiarazioni IVA e sulle società di persone. Crescono le dichiarazioni, ma il reddito dichiarato, pari a 100 miliardi, registra una diminuzione ascrivibile alla forte contrazione dell'economia. Emerge inoltre che sarti, calzolai, corniciai, ma anche estetiste, calzolai e profumieri sono tra le categorie che, secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze sugli studi di settore, hanno dichiarato nel 2012 meno di 10.000 euro. Sotto la soglia dell'incapienza, cioè 8.000 euro l'anno, figurano anche commercianti di scarpe, abbigliamento e giocattolai. Parliamoci adesso dello sciopero alla RAI, sciopero dei dipendenti. La RAI è ufficialmente sul piede di guerra e scenderà in piazza l'11 giugno, una giornata di sciopero nazionale con manifestazioni a Roma per tutti i dipendenti del servizio pubblico. Il motivo è tagli imposti dalla spending review e che a detta dei sindacati colpirebbero i posti di lavoro e non gli sprechi. Una dieta dimagrante di 150 milioni di euro, annunciata a marzo dal commissario Carlo Cottarelli, inserita ad aprile nel decreto IRPEF, ribadita a maggio da Renzi durante una puntata di Ballarò e confermata oggi dal viceministro all'economia Enrico Morando. Nessun dietrofront, il giro di vite resta, ha detto Morando, anche se c'è la disponibilità a valutare l'esclusione della televisione pubblica dall'articolo 20 che taglia sulle partecipate. Così si creano le condizioni per lo smantellamento delle sedi regionali, scrivono i sindacati in una nota, e ancor peggio per la svendita di Rai Way alla vigilia del 2016, data in cui dovrà essere rinnovata la concessione per il servizio pubblico. Indicare in Rai Way e nelle sedi regionali i luoghi verso cui operare vendite riduzioni significa infatti far morire la RAI. Non commenta il presidente Anna Maria Tarantola, limitandosi a ricordare che il 4 giugno è prevista un'audizione della RAI alla commissione di vigilanza. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E passiamo all'Italia, l'amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni, parlando della trattativa all'Italia Etihad, quindi con la compagnia araba, oggi ha detto: aspettiamo una comunicazione formale, ci sono diverse voci per cui ci sarebbe una decisione positiva. È attesa ormai a breve la lettera di intenti di Etihad per Alitalia, con cui gli Emirati daranno in sostanza il via libera alla fase finale delle trattative per l'ingresso nella ex compagnia di bandiera italiana. Il dossier Alitalia è arrivato al dunque, ormai questione di ore, ha detto il premier Matteo Renzi. Secondo le indiscrezioni, Etihad sarebbe pronta a rilevare il 49% della società italiana con un esborso di 560 milioni di euro. Ad accordo concluso partiranno i negoziati sugli esuberi. La compagnia di Abu Dhabi chiede prevedeva l'eliminazione di 3.000 posti di lavoro. Un punto di equilibrio potrebbe essere trovato a 2.500. Vediamo l'accordo, una volta che c'è l'intesa valutiamo il piano industriale e poi si vedrà il tema dell'occupazione insieme al ministro Poletti, ha dichiarato il ministro dei trasporti Maurizio Lupi. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dall'Italia a Siemens che annuncia una maxi ristrutturazione. Non sono ancora chiare le ricadute per l'Italia, ma il numero in sé è di quelli che fanno riflettere. Sono 11.600 i posti di lavoro che Siemens, la più grande multinazionale d'Europa per fatturato, ha annunciato di voler sopprimere. Una gigantesca cura dimagrante che farà calare da 16 a 9 le divisioni interne e che, per i bilanci, dovrebbe portare ad almeno 1 miliardo di euro di risparmi, riducendo in numero e in consistenza i segmenti di attività riuniti nei 4 grandi ambiti di interesse dell'azienda: energia, industria, infrastrutture e sanità. L'annuncio del colosso tedesco dell'elettronica arriva mentre è in corso la battaglia per rilevare le attività del gruppo francese Alstom, conteso all'americana General Electric. In Italia i dipendenti della Siemens sono 6.000, distribuiti in 17 sedi sul territorio nazionale. Che fine faranno ancora non è dato sapere, ma a questo punto il loro futuro è quantomeno incerto. Lucia Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Occupiamoci adesso della Costa Concordia perché ormai sembra deciso, i lavori per la demolizione della nave saranno affidati a Genova. La decisione ufficiale ancora non c'è, verrà presa a metà giugno, ma ormai pare ineluttabile che il relitto della Costa Concordia verrà smantellato a Genova. Costa Crociera ha infatti scelto il porto del capoluogo ligure, città in cui ha la sede, oltre che un migliaio di dipendenti, preferendola alla soluzione turca. Se tutto venisse confermato, l'operazione potrebbe iniziare il 20 luglio, in piena stagione balneare. Il relitto della nave naufragata davanti all'isola del Giglio nel gennaio 2012 verrebbe trainato da rimorchiatori. Una volta giunto sulla costa ligure, verrebbe liberato da tutto ciò che non può essere smaltito come ferro nel nuovo scalo di Voltri e poi smantellato nel porto storico di San Pier d'Arena. Valore dell'operazione 100 milioni di euro. Sembra dunque tramontata l'ipotesi Piombino per cui una commessa del genere sarebbe stata salvifica, soprattutto alla luce dello spegnimento dell'altoforno Lucchini che mette a rischio il posto di migliaia di lavoratori. Massimo Giuliani, sindaco di Piombino ad effetto giorno, annuncia che si opporrà alla decisione di affidare i lavori a Genova. Chiaro, ci opporremo perché sia da un punto di vista del rischio ambientale che questo può comportare, sono 150 miglia da coprire, 7 giorni di viaggio anziché uno e mezzo. E poi perché a Piombino abbiamo le strutture per poterla accogliere in sicurezza. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per la politica, in primo piano Grillo che difende Farage, quello che dovrebbe essere il suo alleato in Europa, attraverso un'intervista al Daily Telegraph, dice che è simpatico, che in realtà non è razzista e sessista. Vorrei capire da voi se ritenete che sia un'alleanza possibile questa, che ci sia compatibilità tra il Movimento 5 Stelle e l'UKIP di Farage, partito considerato ultraconservatore, ultranazionalista. C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Note per voi, poi ne parleremo direttamente collegandoci con la Gran Bretagna, oppure gli sms al 349-238-6666. Intanto, pagina estera, il capo della giunta militare che ha preso il potere in Thailandia ha annunciato che non saranno organizzate elezioni per almeno un anno. Il generale Chan Ocha in un discorso in TV ha parlato di un'agenda di un anno e 3 mesi per avviarsi poi verso le elezioni, si vedrà. Tornando in Italia parliamo di Camorra, le rivelazioni del boss pentito del clan dei Casalesi, Antonio Iovine, hanno consentito per il momento il ritrovamento di 4 Kalashnikov. Le armi sono state rinvenute dai carabinieri di Caserta in un'abitazione di Casal di Principe, era la casa di Antonio Cioffo, già condannato per associazione camorristica. C'è anche Google in primo piano oggi perché ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un modulo attraverso il quale i cittadini europei possono chiedere al motore di ricerca la rimozione di contenuti che li riguardano, il cosiddetto diritto all'oblio, accogliendo una sentenza della Corte europea. Anche di questo parleremo perché ci sono molti aspetti controversi. Direi al momento possiamo fermarci, così aggiorniamo invece chi si sta muovendo e aspetto i vostri messaggi e poi cominciamo con gli ospiti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, prima di salutare il primo ospite di questa sera e di affrontare un tema piuttosto caldo, vi ricordo, se avete acceso in questo momento la radio, ricordatevi che inizia alle 21, effetto notte, però se avete potuto accendere solo adesso o avete voglia di risentire un po' le notizie più importanti, ve le ricordo ora. Assemblea di Banca Italia, il governatore Visco dice la ripresa non sarà né breve né facile, ora è necessario che ci siano le riforme. E poi a proposito della TASI dice c'è un rischio aggravio del 60%, smentito poi nelle ultime ore dal sottosegretario Delrio. Renzi spinge sulle riforme, allo studio tempi e priorità, e la Serracchiani dice porte aperte a chi ci sta. Grillo intanto difende Nigel Farage, è ironico, dice non è razzista, e il leader britannico dell'UKIP dice noi siamo liberali dell'Ottocento. La Concordia verso Genova per lo smantellamento, via dal Giglio entro il 20 luglio, così annuncia il ministro Lupi. E poi ancora la rivolta della RAI contro Italia, a rischio posti di lavoro, sciopero e manifestazione per l'11 giugno. E Google che apre al diritto all'oblio, boom di richieste, rimozione in poche ore, 12.000 richieste da tutta Europa, le esaminerà un comitato di Google e poi affronteremo anche questo argomento. Intanto però c'è un fantasma che ci perseguita, che aleggia ovunque, questa benedetta tassa sulla casa, sui servizi, che ha preso mille nomi, lo sapete, nel tempo. Ciao Salvatore Chicco Padula, vice direttore Ciao. Del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Ciao Roberta. Allora, c'è stata l'Assemblea di Banca Italia e quello che più ha attratto l'attenzione, insomma, in generale è stata la parte che ha detto che la via della ripresa non sarà né breve né facile. Questo, come al solito, ci conforta ben poco, però ha lanciato l'allarme sulla TASI, la tassa sui servizi dei comuni, cioè sui servizi indivisibili, quelli forniti a noi cittadini dai comuni, questo, no? La TASI, che è stata rinviata in molti enti locali a settembre dopo un lungo tira e molla, in altri invece si pagherà ancora entro il 16 giugno, perché neanche io riesco a stare dietro a queste cose. Ho scoperto tra l'altro che c'era una mini IMU a Milano da gennaio, poi mi spiegherai come devo fare anch'io a pagare, non ci capisco più niente, lo confesso proprio a mani basse, che devo dire. Allora, questa TASI, Visco lancia l'allarme, dice che potrebbe anche costare più del 60% dell'ultima IMU, mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio poco fa ha smentito, dice anzi potrebbe essere meno cara del 2012. Aiutaci tu, Chicco Padula. In realtà è complicato da spiegare, sì. Ma proverò a essere chiaro. La TASI nel 2004, si paga per la prima volta nel 2014 e evidentemente sarà, diciamo, un po' più pesante di quello che si è pagato nel 2013, perché nel 2013 l'IMU, come ricordate, è stata, diciamo, soppressa sulla prima abitazione. Poi tu hai citato questo fantasma della mini IMU che poi è comparsa sul finire dell'anno, che però ha colpito, diciamo, valeva complessivamente 700-800 milioni, ha colpito non tutti i comuni, solo i comuni che avevano aumentato l'aliquota rispetto all'aliquota base del 4 per 1000, eccetera. Però diciamo che tendenzialmente moltissimi nel 2013 l'IMU sulla prima casa non l'hanno pagata, quest'anno pagheranno la TASI, quindi è evidente che ci sarà un rincaro. Quello che forse, diciamo, è più interessante capire è se questa TASI che pagheremo nel 2014 sarà molto diversa, più leggera o più pesante rispetto all'IMU che abbiamo pagato nel 2012, cioè quando l'IMU ancora colpiva la prima casa. Allora lì noi abbiamo cercato di dirlo e di fare calcoli più volte. Purtroppo in realtà in molti casi, in alcuni casi, in tante situazioni, che però andranno verificate comune per comune, casa per casa, la nuova TASI sarà più pesante della vecchia IMU, quella del 2012, quando si pagava sulla prima casa. Perché succede questa cosa? Perché l'IMU del 2012 prevedeva per tutti i proprietari di prima casa uno sconto, una detrazione fissa di 200 euro più 50 euro per ogni figlio a carico, mentre la nuova TASI non prevede una detrazione fissa, saranno i singoli comuni a decidere se concedere degli sconti ai cittadini, ai proprietari, sconti che alcuni comuni stanno concedendo in relazione al reddito, al numero di figli oppure al valore dell'immobile, ma che altri comuni non stanno concedendo. Da qui, diciamo, il rischio che la nuova TASI possa essere più pesante dell'IMU del 2012, senz'altro lo sarà più pesante dell'IMU del 2013 perché lì di fatto non si era pagato nulla, quindi questo spero di aver spiegato. Sì, sì, prendiamo fiato, però io mi dico una cosa, Chicco Padura, no, io sono molto naif, molto sprovveduta in queste cose, non so, mi appallottolo i soldi in tasca, non so neanche, ecco. Però mi chiedo perché, per carità, non è che deve fare tu adesso Renzi, però sta dicendo prossimamente il 7.30 arriverà a casa tutto compilato, ma per queste cose non arrivano comunque bollettini a casa, questo è bene farlo sapere, cioè uno deve informarsi dove andare a pagare, cosa pagare, come calcolare, giusto? Non arrivano dei bollettini a casa. Guarda, per la TASI e neanche per la Minimo. Purtroppo è così, nel senso che quando è stata approvata la legge di stabilità a dicembre dell'anno scorso, del 2013, che ha introdotto dopo tante modifiche questa nuova imposta, era stato inizialmente previsto che i comuni dovessero obbligatoriamente fare loro i calcoli e mandare il bollettino compilato a casa dei contribuenti. E che diamine. Ecco, poi diciamo negli ultimi giorni di approvazione della manovra, questa parte molto utile, diciamo necessaria, è stata tolta, per cui i comuni non hanno più l'obbligo di compilare i bollettini e mandarli a casa dei contribuenti, è una facoltà, cioè i comuni potrebbero, se sono bravi, se sono veloci, se sono, mi risulta che non lo stia facendo nessuno, anche già, perché ancora oggi, che oggi è il 30 maggio, sì, 30 maggio. Ecco, si deve pagare il 16 giugno in molti comuni la prima rata, ancora le regole non sono chiarissime, quindi per i comuni diventa oggettivamente impossibile mandare bollettini a casa. E figuriamoci per i cittadini, ricordarsi di farlo, no? Deve essere difficile poi calcolare, capire quanto devono pagare, dove andare a pagare, insomma veramente una grandissima confusione, indegna insomma di un paese civile questa, eh. Assolutamente d'accordo con te. Diciamo la verità. D'accordo con te. Questa vicenda delle tasse sulla casa, insomma, nata nel 2012 con il governo Monti, ci siamo tutti lamentati perché ovviamente il peso del tributo dell'imposta era molto significativo, ci siamo anche lamentati perché le complicazioni erano tante, purtroppo le complicazioni sono addirittura aumentate rispetto, diciamo, alla prima IMU, il che veramente è poco incoraggiante. Certo, abbiamo un minuto ancora, Chicco, se vuoi spiegarci questa cosa degli 80 euro, perché sempre Visco ha detto sì, benissimo il bonus in busta paga, però per garantire gli obiettivi di riduzione del deficit e il pagamento del bonus di 80 euro, il prossimo anno per il 2015 il governo dovrà adottare interventi per ulteriori 14.303 milioni, quanti sono? Sì, Visco ha ricordato una cosa che anche noi abbiamo più volte segnalato, cioè che questo famoso bonus degli 80 euro che proprio, diciamo, in questi giorni è arrivato o sta arrivando a tutti i lavoratori dipendenti che hanno questi redditi fino a circa 24-26 mila euro, è ovviamente, e Visco lo ha ribadito, è una cosa assolutamente positiva, probabilmente anche necessaria per l'economia in un'ottica di ripresa dei consumi eccetera, però noi sappiamo che questa misura è una misura una tantum, cioè al momento il bonus degli 80 euro esiste solo per l'anno 2014, non sappiamo ancora che cosa succederà nel 2015, quindi Visco, insomma, ha ricordato che se il governo vuole mantenere l'impegno più volte ribadito dal Presidente del Consiglio Renzi di non solo mantenere il bonus per tutti anche nel 2014, per tutti quelli che già lo ricevono quest'anno, ma addirittura di estenderlo anche ad altre categorie che sono state escluse, penso ai pensionati, penso ai, diciamo, i lavoratori autonomi con redditi molto bassi, e allora sarà necessario trovare risorse che attualmente non sono ancora state stanziate. Il bonus per il 2015 per quest'anno, per il 2014, vale, se ricordo bene, 6 o 7 miliardi, quindi immaginiamo per l'anno prossimo, se dovrà essere allargata la platea ed esteso, servirà ancora di più. Quindi, insomma, ne vedremo delle belle. Sono delle belle, ormai non ci meravigliamo più di nulla. Grazie Checco Padula. Grazie a voi. Grazie, quindi sono cose che si dovrà grattare Renzi, come si dice. Sentiamolo allora Renzi a Crozza e Paese delle Meraviglie. Passaporto, spiegatemi, perché con tutte queste riforme che ho fatto, questa non è più l'Italia, è la Svezia. Non si dice. Senta, va bene, Presidente, va bene, non è il caso però di fare sempre il Renzi Show, no? La correggo? Cosa? La correggo subito. Perché? Perché questo è il DEF Show. Sì, va bene. Ma lo sa cosa vuol dire DEF? Sì, sì, lo so. Dov'è la fregatura? No, no, no, no. Decreto esageratamente fighissimo. Ma no. Disegno no. economico fantascientifico. Ma cosa dice? O Duran Duran e Roy Forever. Senta, allora guardi che DEF sta per documento economico finanziario. Signori miei, sentite come suonano vuote e tristi queste parole. Economia, finanza, vabbè, ma parole sono... senza poesia. Ma chi sa? Chi di voi si è mai commosso leggendo un'aliquota? Beh, che siamo senza poesia, questo è fuori di dubbio, però noi ci dobbiamo fermare così. Sentiamo un po' di pubblicità, naturalmente continuiamo a riflettere sui temi, in particolare vi chiedo appunto sulla possibilità che Grillo e Farage siano compatibili per formare un gruppo in Europa. Vedo già Alessandro che dice, ma Grillo è ancora capace di intendere e volere, Farage quanto di peggio possa esprimere un paese, mentre un altro ascoltatore, Alessandro, scrive, il quadro degli euroscettici è talmente vario che sarà difficile coagularlo stabilmente, posizioni comuni si troveranno invece a seconda dei provvedimenti da deliberarsi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano ancora con voi, stavo guardando i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche ai sms al 349-238-6666, qualcuno che a proposito dello spunto che vi lanciavo relativo a Grillo che difende Farage, il leader britannico dell'UKIP, dicendo in realtà non è razzista, non è xenofobo, non è sessista, è soltanto simpatico, ironico, vi chiedevo se sono conciliabili le loro posizioni in Europa. Fabio dice peccato che Lebetone sia l'unico dalla parte del popolo, penso che intenda Grillo con Lebetone. Massimo dice Grillo come Farage anche Tsipras difende i valori degli onesti, ovvio che si è inviso con la marmaglia di raccomandati radical chic. E poi c'è Liliana Giacone che dice mi sono permessa di mandarle uno sproloquio cartaceo, cordialmente, hai fatto bene a permetterti, leggerò questo sproloquio. Intanto però vi racconto quali sono, anzi ve le ricordo, le notizie principali di oggi. Assemblea di Banca Italia, il governatore Visco lancia l'allarme sulla TASI dicendo che c'è un possibile aumento del 60%, anche se poi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio smentisce, dice anzi potrebbe costare meno del 2012. Rai, dipendenti in sciopero l'11 giugno, il taglio da 150 milioni, scrivono le segreterie sindacali, non riduce gli sprechi. Camorra parla a Iovine, il pentito Iovine, trovati dai carabinieri 4 Kalashnikov. Grillo che difende Farage, ne abbiamo parlato, ne parleremo dopo. In Thailandia il capo della giunta militare annuncia che non ci saranno elezioni per un anno. Per la Costa Concordia è stato quasi deciso, sarà smantellata Genova, a breve ci sarà la conferma ufficiale, i lavori potrebbero iniziare a luglio. Diritto all'oblio, Google apre all'Europa, di questo parleremo tra pochissimo. E per quanto riguarda una novità del Principato di Monaco, il principe Alberto e Charlene aspettano un figlio. È un'espressione particolare questo diritto all'oblio, no? Un po' tutti si danno da fare nella vita, chi più chi meno, per non essere dimenticati, invece qua si difende il diritto all'oblio secondo una sentenza, prima una battaglia in particolare dell'Italia e della Spagna e poi una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito il diritto dei cittadini a vedere rimosse dal web, da internet, insomma le informazioni ritenute superate o inesatte. Google allora cosa ha fatto? Ha lanciato un servizio attraverso il quale i cittadini europei potranno chiedere che vengano cancellati contenuti a loro relativi o collegamenti vari e che possano risultare da una ricerca nei loro confronti. Ma adesso per capire quali possono essere gli aspetti controversi, per esempio quello di conciliare il diritto all'oblio, quindi la tutela della privacy, con la libertà di informazione. Io saluto Giuseppe Busia, segretario generale dell'autorità garante della privacy. Bentornato Giuseppe. Grazie, buonasera. E c'è qui con me in studio Enrico Pagliarini, lo conoscete, 2024, tutti i sabati alle 15, caro Enrico. Eccoci qua, buonasera. Ciao Enrico. Prima vorrei che Enrico ci dicesse bene, anzi prima parliamo della sentenza e poi Google che ha agito di conseguenza. Giuseppe Busia, quindi questa era una sentenza, abbiamo detto, della Corte di Giustizia europea, no? Dicendo, sancendo questo diritto. Sì, la sentenza ha detto direi tre cose importanti. La prima è che le regole europee sulla protezione dei dati personali si applicano anche a Google, indipendentemente dal fatto che il motore di ricerca sia localizzato negli Stati Uniti, tutti gli operatori sono uguali sotto questo profilo e quindi tutti i cittadini europei hanno dei diritti importanti e che vengono tutelati anche lì. Seconda cosa, i motori di ricerca, che sono di fatto la porta di accesso al web e quindi amplificano le tante notizie che ci riguardano sparse nelle diverse pagine web, sono titolari autonomi, hanno un impatto forte sulle persone e quindi è giusto che siano loro stessi destinatari delle ricerche dei cittadini, perché i loro algoritmi non sono neutrali, decidono un ordine in cui compaiono le notizie e di fatto le amplificano più o meno. Terza cosa, specificamente sul diritto all'oblio, se un cittadino chiede, per le ragioni che tu ricordavi, perché la notizia è superata, perché non ha più senso, perché un ragazzo appare con una fotografia in cui magari ha alzato un po' il gomito e vuole evitare a distanza di tempo che il datore di lavoro, prima del colloquio di lavoro, si faccia un'idea sbagliata su di lui, può chiedere che venga rimossa. Naturalmente questo non è un diritto assoluto, ma Google, come tutti i titolari, quindi non c'è niente di speciale rispetto a tutti i soggetti che hanno dei dati e che utilizzano i dati personali di altri, deve valutare se prevale l'interesse del singolo a vedersi tutelato o magari c'è un interesse pubblico, per cui la stessa Corte dice se c'è un personaggio pubblico, un interesse pubblico, allora può prevalere quello. Per cui niente paura sulla riscrittura della storia, e invece una acquisizione di diritti da parte dei cittadini. Non è semplicissimo, non sarà semplicissimo, il tentativo di oggi dovrà essere valutato, però è un passo avanti per una tutela più generalizzata dei diritti dei cittadini. Ed è vero, mi confermi sinteticamente Giuseppe Busia, che era stata una campagna anche spinta dall'Italia, questa, no? Di riuscire a ottenere questo diritto. In Spagna e l'Italia, noi come garante avevamo fatto una memoria, il governo italiano si è costituito con posizioni in aiuto alla Spagna e quindi sì, noi eravamo parte del giudizio e in questo senso abbiamo avuto ragione. E quindi Enrico Pagliarini, allora Google, che è il principale, possiamo dire, il principale motore di ricerca del mondo, no? Un po' tutti aprono Google se devono cercare qualcosa, quindi diceva anche Giuseppe Busia, ha una posizione di predominio, anche una grossa responsabilità poi, no? nel dare informazioni. In cosa consiste questo servizio che mette a disposizione quindi ai cittadini? Beh, molto semplice, c'è una pagina, uno se ritiene che ci sia tra le ricerche che vengono fatte con il proprio nome e cognome su Google, se ci sia un link che non deve essere più visualizzabile online, uno scrive, segnala questo link e poi Google lo valuterà. Quindi non è automatico, non è che voglio essere cancellata, Google, questo proprio l'hanno detto, io ho parlato oggi con le persone di Google, valuteranno caso per caso. Infatti il problema è proprio lì, visto che la sentenza su alcuni punti non è, ma non può esserlo, chiara, ci sono alcune sfumature che devono essere decise caso per caso, perché i casi sono effettivamente molto molto diversi tra di loro. Come si fa in alcune situazioni a definire se un fatto che uno, cercando online con nome e cognome, che ne so, uno cerca Roberta Giordano e magari salta fuori, no, non diciamo una cosa notizia fuori, di cose, 10 anni fa, come fa a dire, vabbè, nel tuo caso tu sei un personaggio pubblico, quindi già qui, però, che ne so, a livello locale potrebbe esserci un personaggio famoso in una cittadina che è sconosciuto ai più, ma in quel caso, nel caso della cittadina, potrebbe avere una rilevanza di informazione, di rilevanza pubblica. I casi sono piuttosto complicati, quindi tra l'altro la Corte non dice nemmeno dovete decidere entro 10 giorni, non mi risulta. Quindi che non dà dei tempi, no, delle scadenze. Adesso la notizia di stasera, non sappiamo nemmeno quanto precisa è, che ci siano già 12.000 richieste, sarà un problema molto serio. Uno dei rischi è che, tra l'altro questo riguarda solo l'Europa, quindi tutte queste informazioni se uno le cerca dal motore di ricerca negli Stati Uniti le trova tranquillamente. Ecco, bisognerà capire quale sarà la modalità con cui Google decide di lavorare. Loro hanno annunciato che stanno costituendo un comitato con alcuni esperti di vario genere per decidere anche che linee tenere, perché naturalmente questo sarà un lavoro, oltre che un problema anche di carattere economico, perché indubbiamente queste cose avrà devono essere gestite, certo, da persone. Avrà un costo, bisognerà capire quali sono i criteri, i tempi, eccetera. Non a caso, Larry Page, che è stato intervistato, e poi da qui che è nata la notizia, dal Financial Times, dice: attenzione, perché noi siamo una grande società, ma una startup potrebbe, di fronte a questo ulteriore compito, farsi avanti per gestire, certo, questa è una ipotesi, cose, diciamo, assurda, futuristica, perché per il momento i motori di ricerca sono quasi tutti grandi e giganti. Però Enrico, volevo chiedere a Giuseppe Busia, a parte tutti questi aspetti controversi, questi criteri ancora da decidere, cose ancora molto vaghe, come si fa in quel caso a distinguere, detto sinteticamente Giuseppe, tra libertà di informazione e diritto alla privacy, quindi all'oblio, no, in questo caso? Si dovrà vedere, come si è detto, caso per caso, però è anche una distinzione che per esempio i mass media, in un campo diverso, perché non si applicano le leggi sulla libertà di informazione, l'ampiezza che si applica ai giornali e ai motori di ricerca, però anche loro distinguono e possono pubblicare liberamente, quando c'è un interesse pubblico, le notizie essenziali, si astengono da altri particolari che magari conoscono e evitano di pubblicare, non per censurare o nascondere la storia, ma per rispettare la libertà delle persone. Chiunque usa dati personali di terzi deve farsi carico di ciò. Io credo che probabilmente anche Google, che ne usa tantissime, quindi naturalmente è un'organizzazione più complessa, dovrà farsi carico di questo. Quello che non c'è una diversità essenziale rispetto agli altri titolari, usare i dati di terzi comporta delle responsabilità. C'eravamo illusi, c'eravamo raccontati che gli algoritmi fossero neutri, non è così. La verità è probabilmente che Google era già l'arbitro di cosa far apparire o no nelle diverse linee dei titoli, adesso questo è più chiaro, e però non lo decide solo lui, ma lo deve decidere interloquendo con gli interessati. È un qualcosa in più per i diritti delle persone. Chiedo a Enrico, proprio in chiusura, quindi questo è un buon proposito per il momento di Google, tante cose detto andranno chiarite, poi le chiarirai anche tu in 2024, il sabato alle 15, ricordatevi. Oltre che un buon proposito, è anche obbligato da questa sentenza, quindi si deve adeguare. Quindi Google, ma anche gli altri, come diceva Giuseppe. Ah sì, tutti Busia, i motori di ricerca. Quanti, infatti sugli altri motori di ricerca vedremo quali saranno le decisioni, anche perché ci sono motori di ricerca che non hanno una stabile organizzazione in Europa, ad esempio cito Yandex, che è un motore di ricerca piuttosto utilizzato, anche se non famosissimo, che è russo, è una tecnologia piuttosto capace, cioè Yahoo che è famosissimo. In quei casi bisognerà vedere che cosa fare, perché il rischio poi che magari certe informazioni non si trovano su Google, ma se magari vai su Yandex si e fanno le trovi, concorrenza su questo. Insomma, avete capito quanti dubbi, quante incertezze, quante cose ancora da chiedere, però l'argomento in sé è interessante. Grazie Enrico Paglierini, grazie Giuseppe Busia. Grazie. Ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo allora molto brevemente le notizie, perché abbiamo altri temi da trattare insieme. L'abbiamo detto, l'Assemblea di Banca Italia con Visco, che ha detto che la ripresa non sarà né breve né facile, ha lanciato un po' questo allarme sulla TASI con un rischio aggravio del 60% rispetto all'IMU, però il sottosegretario Del Rio in serata ha smentito. Poi vedremo chi ha ragione. Renzi spinge sulle riforme, allo studio tempo e priorità, e poi Grillo che difende Nigel Farage, ironico, dice non è razzista. Intanto vedo i vostri messaggi su questo tema, che sulla pagina Facebook di Effetto Notte. La Concordia verso Genova per lo smantellamento, via dal Giglio, annuncia il ministro Lupi, entro il 20 luglio. E poi la rivolta della RAI contro i tagli a rischio posti di lavoro, sciopero e manifestazione l'11 giugno. L'avete sentito adesso che Google apre al diritto dell'oblio, un boom di richieste per il momento di rimozione, in poche ore ne sono arrivate 12.000 da tutta Europa. E adesso invece torniamo a parlare di elezioni europee a 5 giorni di distanza. Come sono cambiate negli ultimi mesi le intenzioni di voto degli europei? Quanto le elezioni europee hanno rispecchiato i sondaggi della vigilia? Abbiamo detto che i sondaggi non sono stati molto attendibili. Sergio Nava lo ha chiesto a Doru Frantescu, direttore di Vote Watch, organizzazione che per mesi ha seguito l'evolversi degli orientamenti elettorali. Europa 24 notte. Verso le europee. Abbiamo studiato nelle ultime settimane quali erano le tendenze di voto, quindi non direi che abbiamo una sorpresa, ma sì, guardiamo quali sono i risultati di oggi e facciamo un paragone con i risultati di 5 anni fa, vediamo che abbiamo questa sorpresa di anti-europei che hanno vinto quasi un terzo dei posti nel Parlamento europeo, e questo certo che avrà delle conseguenze in quello che riguarda il processo di integrazione europea. A livello di dati, quali sono state le principali variazioni che avete osservato tra sondaggi e poi i risultati finali? Beh, ci sono variazioni in particolare in Francia, dove alcuni sondaggi davano il Front National come vincitore, ma non tutte. Abbiamo visto che alla fine sì, il Front National ha vinto le elezioni in Francia, e la stessa cosa si può dire sull'Inghilterra, dove il partito di Nigel Farage, United Kingdom Independent Party, sembra di aver vinto le elezioni, quindi contro alcuni sondaggi che davano i Labour Party come vincitori. E poi la seconda differenza è anche in quello che riguarda il risultato dei socialisti, perché in realtà sembra che i socialisti hanno fatto più male che quello che davano i sondaggi. La differenza tra i popolari e i socialisti sembra di essere di 30 posti, mentre che i sondaggi davano una differenza di massimo 15. E se dovesse dare un titolo lei a livello statistico di queste elezioni europee, che titolo darebbe? Beh, il grande titolo è che le forze pro-europee hanno vinto ancora una maggioranza rispetto alle difficoltà dell'Unione Europea, dell'economia europea e dell'occupazione, ma le forze pro-europee formate dal Partito Socialista, dai Popolari e dai Liberali hanno vinto comunque una maggioranza di 64%. Tutte queste forze combinate, questa è la grande notizia. Gli anti-europei hanno fatto un buon risultato, ma comunque non sono riuscito a livello europeo di salire di più di 30% dei posti nel Parlamento europeo, quello che farà la politica europea più complicata, ma comunque ci sarà una maggioranza pro-europea. Quello che faremo adesso sarà di analizzare quali saranno le nuove proporzioni dentro di ognuno dei gruppi politici. Per esempio, mostreremo che nel gruppo popolare europeo la delegazione tedesca continuerà a essere la più grande, ma anche proporzionalmente vincerà nel suo gruppo, quindi sarà più influente che adesso, mentre che in gruppo socialista abbiamo dei cambi dove la delegazione italiana sembra di essere la più grande, sarà sia la italiana o quella tedesca. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E restiamo sulle elezioni europee, vi dicevo, con l'argomento del Movimento 5 Stelle, del suo leader Grillo, che dopo aver incontrato Farage dice in questi giorni, Farage, il leader ultranazionalista ed euroscettico britannico del partito UPIC, dice: è un'organizzazione democratica con delle procedure decise dai suoi membri, che ha sempre dimostrato intenti pacifisti. UPIC si è opposta all'intervento militare dell'Unione Europea e del Regno Unito in Iraq, Afghanistan, Libia e Siria, dice: non ha nessuna forma di razzismo, sessismo o xenofobia. Allora mi collego con Leonardo Maisano, corrispondente di Sole 24 Ore da Londra. Ciao Leonardo, tu che sei lì, dici in sintesi che cos'è questo UPI, che se veramente si dicono bugie, com'è? Beh, dunque, che ci siano stati dei commenti sessisti, omofobi, eccetera, è assolutamente fuori discussione. Ci sono stati in passato, ci sono stati anche in un passato recente. Che questo poi sia, come dire, fuori dalla linea che Farage vuole dare ora al partito, ridandogli, come dire, una patina di maggiore come dire, accettabilità, spostandolo verso il centro su tutti i temi, non c'è dubbio. Però che in passato l'UKIP, anche in un passato recente, abbia avuto esponenti che facevano commenti del genere, è fuori discussione. Ora, ribadisco, Farage sta cercando di riportarlo in qualche modo in un consesso meno scandaloso di quello del passato. Quindi dici si sta un po' rendendo più presentabile, ci sono dei punti in comune con il Movimento 5 Stelle, quindi l'euroscetticismo? Ma no, il problema vero è questo, il punto in comune con il Movimento 5 Stelle, a parte questa idiosincrasia per l'Europa, che nel caso dell'UKIP è un'idiosincrasia totale, assoluta, l'unico vero punto del programma, nel caso del Movimento 5 Stelle non sono in grado di valutare, ma non mi sembra che sia così fortemente anti-europeista come l'UKIP. L'UKIP vuole l'Inghilterra fuori dall'Unione Europea, quindi non si parla di nessun tipo di compromesso, fuori sì che si implicita. Ci riuscirà? Questo non lo so, dipenderà dagli equilibri inglesi, perché c'è comunque una forte resistenza all'integrazione. Però non vedo punti in comune particolari, soprattutto perché l'UKIP è un partito profondamente conservatore, è un partito Infatti. Che vuole, come dire, difendere i confini dell'Inghilterra entro i confini della sua insularità, al di fuori di qualsiasi partecipazione a progetti comunitari. E staremo a vedere, perché mi pare che anche tanti componenti del Movimento 5 Stelle, sostenitori e parlamentari diversi, non siano d'accordo. Vedremo nei prossimi giorni come si sviluppa. Grazie Leonardo Maisano. Ciao Leonardo. Ciao. Salutiamo Leonardo Maisano a Londra, mentre adesso qui vogliamo sapere in Italia con il colonnello Mario Giuliacci che tempo ci sarà nei prossimi giorni. C'è anche un ponte di mezzo, colonnello. Ciao Mario. Sì, buonasera, guarda, voglio darti una notizia che invece riguarda queste ore. C'è un cluster temporalesco molto violento che sta interessando il Veneto, il Ferrarese, il Mantovano. Potrebbe allargarsi verso la Lombardia, temo che siano temporali molto molto violenti, purtroppo non è una buona notizia. Andiamo a domani direi sarà una giornata molto più nuvolosa e più temporalesca di quella che sia stata quella di oggi, rovesci temporali su gran parte del nord Italia, regioni appenniniche fino a sconfinare lungo le coste. Invece domenica sarà giornata bella e soleggiata su quasi tutta l'Italia. Ripeto, attenzione a coloro che sono in questo momento nelle aree del Veneto, Mantovano, Ferrarese, l'est della Lombardia, insomma avere prudenza perché c'è questa area ripeto di forte violenza. Grazie colonnello Giuliacci, per il resto www.meteogiuliacci.it. Ciao colonnello, a dopo per noi.